si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme sino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi alle nostre buone notizie. Parleremo della legge di iniziativa popolare contro e per regolamentare il gioco d'azzardo, ma soprattutto dopo le 10 saranno in studio con noi 99 posse, quindi rimanete con noi a 20 anni dallo storico album Cure Cure Guagliò. Tornano con un 2.0 di quel celebre album che segnò gli anni 90 e anche un po' la rabbia giovanile, la voglia di cambiamento di quegli anni. Vi ricordo anche subito in apertura che la parola chiave per il nostro contest Diventa Inviato, Inviato Cercasi, è questa settimana volontariato. Avete tempo fino a mercoledì per trovare buone notizie nel vostro quartiere, nella vostra città, nella vostra regione che riguardino il volontariato. Scriveteci a sipoffare@radio24.it oppure ci potete trovare su tutti i nostri contatti, l'account Twitter del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Siamo anche su Twitter, Si può fare trattino radio 24. Adesso andiamo subito ad iniziare. And now the good news. Questa volta siamo a Bari per una piccolissima iniziativa, ma a volte le buone notizie più sono piccole più sono gustose. Si tratta di un'iniziativa di responsabilità sociale di alcuni commercianti, ristoratori di Bari Vecchia che si sono messi di loro spontanea iniziativa e a spese loro a ridipingere, i cassonetti dei rifiuti arrugginiti. Il comune non li ridipingeva più da anni. Allora, prima di aspettare l'intervento del comune, giusto, quanto volete, ci deve essere quanto volete, i commercianti, i gestori di pub in particolare di Bari Vecchia si sono messi lì col pennello con i colori giusti, quelli che rispettano anche il decoro urbano, e l'hanno fatto loro. Insomma, una piccola buona notizia per iniziare bene la domenica. Ma adesso andiamo sulle prime pagine dei giornali per vedere di che cosa si occupano. L'ultimatum, o quasi, anche se poi c'è stata una rettifica, di Berlusconi a Renzi, e poi indiscrezioni un po' su tutti i giornali, impazzano per quanto riguarda la spending review, dove verranno presi i soldi e soprattutto dove verranno tagliate le spese della pubblica amministrazione. Cominciamo con il Corriere della Sera. Avviso di Berlusconi a Renzi: la riforma del Senato è inaccettabile. Poi frena e dice che non rompe. Per Berlusconi, leggiamo che apre la campagna elettorale per le europee, ieri in diretta telefonica a un convegno a Milano. La riforma del Senato è inaccettabile e richiama il premier Renzi al rispetto dei patti. Poi la frenata: non intendo rompere, risponde il vice segretario del PD Serracchiani, che dice: noi non ci fermiamo. Poi dicevamo spending review, mossa antiburocrazia per tagliare la spesa. Da maggio meno uffici periferici, centralizzate le decisioni. Taglia la spesa pubblica da maggio, si decide a Roma, gli uffici periferici saranno ridotti. Così il commissario Carlo Cottarelli, che ieri era a Cernobbio e anche se ha schivato i giornalisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche ha detto così: l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica di 32 miliardi, avete capito bene, 32, ma è la cifra che già conosciamo, in un triennio era già stato fissato, ma il nuovo esecutivo gli ha dato più forza, ha detto Cottarelli. Come dire, scrive il Corriere, anche se i ministri mi attaccano, io resto al mio posto perché ho l'appoggio di Renzi. Si vedrà se è davvero così, scrive ancora il Corriere. Sta di fatto che il commissario ha presentato un programma articolato da qui al 2016. Naturalmente sui giornali di oggi ci sono tutti un po' i dettagli dei vari tagli. Due fotonotizie sempre sul Corriere. Alle urne sfidano i talebani, l'affluenza buona in Afghanistan, afghani in coda per scegliere il successore del presidente Karzai. L'alta affluenza è una sfida ai talebani, timori per il dopo elezioni, capitali in fuga. E la foto sono donne con bambini che vanno a votare. Poi l'altra notizia riguarda i due missionari italiani rapiti, paura in Camerun, rapiti con una suora canadese. Si tratta di Gian Antonio Allegri e Giampaolo Marta, 57 e 47 anni, sono stati rapiti dagli estremisti islamici del Camerun, nella zona nord, al confine con la Nigeria. Repubblica intervista Daniela Santanchè a proposito del fuori onda, quello nel quale la Gelmini e Toti dicono che il Cavaliere si sente stretto nella morsa di Renzi. Titolo dell'intervista alla Santanchè: Renzi ci sta rimbecillendo, è ora di arginarlo. Lei dice: guardi, a me non piacciono le cose rubate, non posso dar loro peso perché è contro la mia mentalità. Ma è una notizia, richiede il giornalista. Emerge l'immagine di un leader malandato, in stampelle, senza strategia. Berlusconi sta benissimo, piuttosto è in atto il quinto colpo di Stato, perché, lo ricordo, Renzi non è stato eletto. Dice, ma quello che emerge dal video è una sofferenza, soffre il Premier. Renzi, dice la Santanchè, usa ingredienti liberali che ci piacciono, ma poi confeziona una torta di sinistra. Un esempio, le province, dice di abolirle, in realtà le trasforma in province rosse, non elette. Ma allora, insomma, Santanchè propone di far saltare il tavolo delle riforme? No, non metto in discussione il patto siglato da Berlusconi, è Renzi che lo sta mettendo in discussione. Il solito gioco di scarica barile. Prosegue la Santanchè: se l'Italicum era l'emergenza, perché lo rimanda? Mantenga fede agli impegni. Non è che ci rincoglionisce e noi siamo servi sciocchi. Così Daniela Santanchè. C'è anche un'intervista a Renzi sul quotidiano nazionale, cui ribadisce un po' i tempi. Insomma, in questi giorni è stato da tutte le parti Renzi, quindi abbiamo abbondanti contenuti. Due cose: uno sulla minoranza del PD che minaccia di non votare la riforma del Senato. Dice Renzi: non amo i diktat, ma se una comunità democratica si dà delle regole, poi deve rispettarle. Che il Senato non debba essere più elettivo, che chi ne fa parte non percepisca uno stipendio e non possa votare la fiducia al governo nella legge di bilancio, lo vogliono i cittadini che hanno votato alle primarie e lo ha deciso la direzione del partito. Sono sicuro che tutti gli eletti del PD si attesteranno su queste posizioni. Poi, a proposito di Grillo, che vuole che le dica: ormai svolgo una funzione sociale, solo insultandomi Grillo riesce a sentirsi vivo, lo dico da fan perché io agli spettacoli di Grillo ci andavo volentieri ed ora mi stringe il cuore nel vedere che fa fatica a riempire i teatri. Quindi frecciata di Renzi a Grillo. Una notizia per quanto riguarda la spending review, un aspetto singolo e singolare, quello dell'asta delle auto blu, ce lo ricorda oggi La Stampa. Tutti pazzi per le auto blu, boom di offerte e prezzi più alti della media. Il martelletto elettronico del banditore sarà battuto stasera quando termina l'asta digitale sul sito eBay per le prime auto blu. La buona notizia è che l'asta sta andando benissimo. Stasera ci sarà un'entrata straordinaria di almeno 250.000 euro. Salta agli occhi infatti che agli italiani le auto blu piacciono e come. Da giorni le offerte si rincorrono, se ne registrano 1.543. Chiamateli pure pruriti di casta, cioè piacciono le auto blu. Per esempio, per una Alfa Romeo 2004, del 2007, che ha 126.000 km, siamo a 8.500 euro di offerta, che non è poco. Per una BMW 525D del 2009 con 200.000 km siamo a 15.500 euro di offerta, e sono prezzi più alti della media. In regia mi fanno segno che sono matti quelli che fanno l'offerta, ma sai, comprarsi l'auto che è stata di un ministro può avere, come dice La Stampa, questo prurito da casta, può essere anche che abbia questo valore in più. Comunque l'importante è che si vendano e che rendano bene. C'è anche chi si occupa di tutt'altro, come Libero, che ci dà una buona notizia, o a seconda dei punti di vista. Dice Libero: i lavori che danno lavoro, da pizzaioli a gelatai, nel pieno della crisi ci sono quasi 500.000 artigiani che non solo tengono botta, ma creano nuovi posti. Andiamo a leggere. Nel 2013, dice un rapporto targato CGA di Mestre, le prime 20 attività artigianali in maggiore crescita hanno creato almeno 24.000 nuovi posti, un numero che a grandi linee corrisponde a quello dei dipendenti della Fiat in Italia. In totale le prime 20 categorie selezionate contano 460.000 posti di lavoro. Ma chi sono questi eroi che sono riusciti a fare meglio per l'Italia di Sergio Marchionne? Le attività sono queste: pizza al taglio, gastronomie, rosticceria, friggitorie, addetti alle pulizie, estetiste, serramentisti, panettieri, giardinieri, gelatai e dipintori, cioè i bianchini. In molti casi, però, poi si affretta a precisare la CGA di Mestre, si tratta di micro attività con fatturati modesti. Ma insomma, sono tutti capitoli, segnateveli, in crescita, quindi insomma se uno si mette in affari in quegli ambiti probabilmente un lavoro lo trova. In chiusura una segnalazione dal Fatto Quotidiano che riguarda una legge che deve passare dal Senato alla Camera. Vietato arrestare i corrotti, bancarottieri e i rapinatori. La riforma della custodia cautelare voluta da PD e Forza Italia rende quasi impossibili le manette per gli incensurati, anche per reati gravi. Scrive il Fatto, l'ultimo allarme è arrivato dalla procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone. Stanno rendendo impossibile l'arresto anche domiciliare per delitti che considero di un certo allarme sociale, ha detto Pignatone, che ha combattuto l'andrangheta in Calabria. Si riferiva agli esiti della riforma della custodia cautelare approvata il 2 aprile al Senato e ora passa alla Camera. Con gli ultimi emendamenti approvati il giudice non potrà disporre il carcere neppure la detenzione in casa per reati che secondo Pignatone sono importanti: evasione fiscale di grandi dimensioni, malversazioni, altre violazioni economiche, bancarotta. Ma anche, dice Pignatone, non si potrà più arrestare nemmeno chi fa delle rapine in banca, a meno che non entri col Kalashnikov. Ma, scrive il Fatto Quotidiano, c'è ancora tempo per rimediare nel passaggio di questa legge alla Camera. 800 24 00 24, però il numero verde lo apriamo dopo il giornale radio. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare. Vi voglio ricordare anche che, come detto, quando apriremo il numero verde per i vostri interventi dopo il giornale radio delle 9, cioè tra pochi minuti, come ogni domenica vi chiederemo di indovinare il personaggio della settimana, e questa volta avete la possibilità di aggiudicarvi un soggiorno responsabile di EcoTube. EcoTube è una società nuova che si occupa di turismo responsabile in Italia. Andate sul sito e troverete delle offerte straordinarie di cene, degustazioni, ma anche soggiorni, assaggi di natura, scappatelle di natura, tutto quello che volete. Bene, oggi noi mettiamo in palio un soggiorno responsabile, però questo dopo il giornale radio. Adesso, come sapete, è il momento di andare a curiosare. Vi faccio sentire anche il rumore della carta che sfoglio tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore. Il domenicale ritroviamo il nostro Armando Massarenti. Buongiorno Armando. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora Armando, oggi dove ci guidi tra i grandi appuntamenti, i dibattiti, le cose che davvero dobbiamo tenere a mente nel in panorama immenso della cultura in Italia? Dunque, ma partiamo dalla copertina, anzi diciamo che abbiamo due copertine importanti, quella che sta all'inizio della domenica, ma anche quella da domenica da collezione, che avremo un nostro ospite illustre, Massimo Bucciantini, che ci parlerà soprattutto di questa seconda. Ma partiamo dalla prima. La prima è veramente una novità notevolissima dal punto di vista dei bibliofili soprattutto, ma anche degli storici delle idee, da chi ha a cuore la storia anche dell'economia. Cioè lanciamo così la notizia di questa uscita del catalogo della biblioteca di un grande economista del Novecento, Piero Sraffa, ed è una biblioteca piena di sorprese che, come scrive Giancarlo De Vivo, che ha curato queste 700 pagine di elenchi di libri che erano posseduti dal grande economista italiano, ma che ha vissuto a Cambridge, di cui poi è nota tutta la vicenda che riguarda da un lato l'amico Gramsci e i quaderni dal carcere che furono salvati da lui, ma anche i rapporti con i grandi intellettuali del Novecento, primo fra tutti Ludwig Wittgenstein, che disse di avere addirittura cambiato idea, no, tra la prima fase del suo pensiero e la seconda, grazie ad un gesto che fece appunto Piero Sraffa. E c'è un grande, anche un epistolario molto ricco tra l'altro tra Wittgenstein e Sraffa, ma qui abbiamo appunto i suoi libri sono sì delle rarità, edizioni piuttosto rare dei classici dell'economia, Adam Smith per esempio, di cui lui possedeva la copia che era stata posseduta dallo stesso Adam Smith, e poi cioè il padre dell'economia moderna, e poi chiaramente Capitale, di Marx e molti altri libri di economia, ma è ancora più curioso vedere quegli altri interessi che, come dice De Vivo, insomma, riescono a farci decifrare quello che per tutti è sempre stato un po' un enigma, l'enigma dell'interpretazione del pensiero dello stesso Sraffa, che ha scritto praticamente un libro importantissimo che era Produzione di merci a mezzo di merci. Il titolo della nostra copertina è Produzione di libri a mezzo di libri, consentiteci questo piccolo gioco, ma i libri sono moltissimi e sono anche, riguardano anche appunto la storia delle idee. Per esempio è pieno di libri che riguardano la libertà di pensiero e la superstizione, oppure i libri sulla tortura, libri sui processi alle streghe, classici del materialismo settecentesco, d'Holbach, Voltaire, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, questa è la copertina del domenicale. Adesso però passiamo alla seconda copertina, sì. E poi magari in coda vi dico a qualche altro tema, perché sono tantissimi, insomma, sono 24 pagine molto ricche come al solito. Ma la seconda copertina, non meno importante della prima, è quella che ci ha scritto Massimo Bucciantini, che ha avuto questa bella idea. Noi abbiamo dedicato tutto Domenica da Collezione questa settimana a William Shakespeare, però l'apertura non parla solo di William Shakespeare. Nelle pagine interne ci sono tutte le cose che dobbiamo sapere sull'anniversario di Shakespeare, 450 anni fa nasceva appunto il grande drammaturgo. All'interno troviamo la notizia del Globe Theatre che partirà il 23 di aprile, appunto il giorno dell'anniversario, con un tour mondiale dell'Amleto. Toccherà praticamente ogni stato della Terra fino a tornare a Londra e poi a Elsinore, che è appunto il luogo dove si svolgono le vicende di questo dramma. Certo. E poi all'interno ci sono tante altre cose che non sto a descrivere, ma arriviamo alla copertina della Domenica da Collezione, perché c'è un confronto, una sorta di anniversario parallelo, che è quello tra William Shakespeare e Galileo Galilei. E come dice Giulio bene, ma adesso ce lo facciamo dire da lui, Massimo Bucciantini, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Diciamo che questo doppio anniversario rappresenta in fondo anche un po' quello che andiamo facendo verso il domenicale, cioè mostrare come ci sono due grandi, come dire, possibilità di parlare della cultura. Una riguarda, che non vanno assolutamente separate tra loro, una riguarda la storia della scienza, i grandi personaggi che hanno fatto la modernità dal punto di vista della scienza, e i grandi personaggi di cui appunto, che questo è appunto Galileo, che è nato lo stesso anno, sempre nel 1564, e l'altro è appunto William Shakespeare, che possiamo invece considerare il grande protagonista. Allora sentiamolo dalle parole di Massimo Bucciantini, lo ricordo, professore di storia della scienza all'Università di Siena. Spero di aver detto giusto. Un accostamento di grande fascino oggi sul domenicale: Galileo e Shakespeare. Bucciantini. Sì, buongiorno. L'idea è nata essenzialmente dal fatto che noi bisogna riformare i programmi scolastici. Bisogna dare un segnale forte e concreto a favore di una visione unitaria della cultura, e allora forse un segno concreto viene proprio da questi due nostri grandi moderni. Cioè, esiste Galwell, io ho usato questa formula, Galwell, ogni volta che noi lo facciamo esistere, cioè ogni volta che ci rendiamo conto che quello è effettivamente il nostro punto d'inizio. Certo. Questo dobbiamo festeggiarli insieme. E sono un grande punto d'inizio, indubbiamente. Dobbiamo, sì, riuscirci. Ecco, questo rimanda un po' al tema che abbiamo già trattato le settimane scorse, sì, sulla nostra proposta di una riforma della scuola, della riforma dei saperi. Quindi mi pare molto importante quello che l'intenzione di fondo, diciamo, di questo articolo. Quindi che appunto si chiude con questa proposta di Galwell, appunto Galileo e William, che potrebbero informare buona parte dei nostri programmi. Ecco, ma come volevo chiedere a Bucciantini, ma concretamente che cosa si potrebbe fare a questo punto? Che cosa dobbiamo riproporre? In un minuto, perché poi dobbiamo chiudere. Grazie Bucciantini. In un minuto posso dire che oggi, siccome va molto di moda correre anche in politica, prima di correre Murakami ce lo insegna, visto che chi corre non pensa, bisogna camminare. E per camminare bisogna avere delle idee, dei progetti. Sapere dove si vuole andare. Sì, esatto. E quindi va benissimo correre. Però, ecco, prima ci vuole un progetto di una scuola che sia all'altezza dell'Europa del futuro. Questo non riguarda solo l'Italia, riguarda la Francia, l'Inghilterra. Cioè bisognerebbe pensare a dei nuovi programmi che riguardano un po' tutti i paesi europei. Insomma, viva Manzoni, per carità, non è che uno vuole togliere Manzoni. Però ecco, forse bisognerebbe provare a ripensare questi programmi, pensando a Shakespeare, a Montaigne, a Cervantes. Dobbiamo salutarci purtroppo, perché abbiamo il giornale radio che incombe, i tempi sono veloci anche per noi. Grazie Massimo Bucciantini, grazie anche Armando Massarenti, con te ci risentiamo domenica prossima. Noi adesso facciamo una pausa, giornale radio, torniamo subito dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Ben ritrovati, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Si può fare, staremo insieme sino alle 11, tra pochissimo parleremo della legge di iniziativa popolare per regolamentare il gioco d'azzardo, verrà presentata il 9 aprile in Parlamento, le 60.000 firme raccolte verranno portate in Cassazione, questo tra pochissimo. Vi ricordo però che potete chiamarci 800 24 00 24 per intervenire in diretta come ogni domenica. Potete raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana, potete partecipare al nostro contest, vi chiediamo di indovinare il personaggio della settimana, tra poco dopo la pubblicità vi daremo il primo indizio. Oggi in palio un cofanetto EquoTube per un soggiorno in una località italiana, un soggiorno responsabile. Poi vi ricordo anche che dopo le 10 ci sarà in studio con noi, ci saranno i 99 posse, quindi un bel momento anche di musica. Ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Parliamo di gioco d'azzardo, slot machine, videolottery, slot house, ma anche poker online. Una legge di iniziativa popolare verrà presentata in settimana, sono state raccolte 60.000 firme, una legge di iniziativa popolare per regolamentare il gioco, lo ammettono ormai anche i gestori aderenti a Confindustria, che c'è bisogno di una legge per regolamentare il fenomeno che in Italia ha assunto proporzioni spropositate quanto a numero di apparecchi, numero di persone che giocano e anche fatturati. Tra l'altro lo Stato ci guadagna sempre di meno e anche questo bisognerebbe interrogarsi su cosa sta succedendo, ma soprattutto ci sono molti bar che rinunciano perché evidentemente c'è qualcosa che non va in questo che viene definito un gioco, ma non c'è molto da ridere, spesso c'è un fenomeno che i medici ci segnalano della ludopatia, cioè del gioco patologico. Noi ne parliamo con chi ha partecipato a questa raccolta di firme, Angela Fioroni della Lega per le Autonomie Locali della Lombardia, lei è segretaria regionale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto cari ascoltatori, 800 24 00 24, vorremmo anche sentire che cosa ne pensate voi del gioco d'azzardo, di come stanno cambiando i quartieri nei quali abitate, perché basta guardarsi intorno per vedere che ci sono continuamente nuove sale giochi che aprono. Se vi è mai capitato di avere delle vincite straordinarie, così anche per dimostrarci una volta tanto che si vince, anche se poi ci dicono che, anzi le cifre sono ufficiali, Dunque, quanta è la percentuale? Il 70% della spesa torna in vincite, anche se poi su queste cifre sappiamo che c'è tutto un indotto che balla, perché il software che gestisce le comunicazioni all'agenzia per le dogane non è chiaro se funzioni. In passato c'è stata una grande inchiesta della Guardia di Finanza, quella famosa dei 98 miliardi, poi sfumata in poche centinaia di milioni di euro pagati dai gestori e dai concessionari. Ma veniamo a noi, Angela Fioroni, quante firme avete raccolto? Allora, aggiorniamo il numero, perché finora ne sono state raccolte più di 80.000. Quindi ben più di quelle che erano state annunciate. Tra l'altro, a fa la cosa giusta qualche giorno fa, 60.000, esatto, state andando, esatto, avanti alla gara. E quelle necessarie sono? 50.000. Per presentare che cosa? Una legge di iniziativa popolare, una si chiama così? Esatto, una legge di iniziativa popolare per la tutela della salute delle persone attraverso la regolamentazione del gioco d'azzardo. Ecco, diciamo una cosa, perché questa vostra proposta non arriva, diciamo, non parte da zero, non arriva sul nulla. Ci aveva provato il governo Monti a mettere delle regole, delle distanze minime, secondo alcuni un palliativo, ma insomma era quantomeno un modo per entrare in una idea di regolamentazione, 200 metri da scuole, ospedali. Ci stanno provando alcune comuni e regioni. Questa legge che voi proponete, che cosa propone per l'appunto? Allora, intanto propone, chiede di curare le persone malate. Attualmente non ci sono ancora finanziamenti dedicati alla cura delle persone malate, che sono dipendenti dal gioco d'azzardo, esattamente come si diventa dipendenti da altri tipi di droghe, e quando si è diventati dipendenti bisogna che si venga curati. Da soli non ce la si fa più a uscire da questo tunnel in cui si è entrati. Quindi la cura, i soldi per la cura dei malati, l'assistenza alle famiglie, per la prevenzione, perché questa è una partita che si gioca da una parte sul versante della legge, ma dall'altra parte sul versante della formazione, della consapevolezza, della conoscenza e quindi della prevenzione, ma anche per fare prevenzione presso le scuole, presso i luoghi di lavoro, nelle comunità locali, presso le associazioni. Anche per fare prevenzione ci vogliono dei finanziamenti. Quindi un primo capitolo di articoli riguarda questi aspetti. Un altro gruppo di articoli riguarda il potere ai comuni, perché in questa partita i comuni non hanno alcun potere. Le licenze, le autorizzazioni le danno i questori, e i comuni nei territori poi vediamo aprire le sale e installare gli impianti da gioco senza poter esprimere nessuna decisione. Ecco, questo è un punto importante, perché credo che in ogni città ci siano state delle vicende raccontate magari anche dalla cronaca locale, quindi chi ci ascolta forse può riscontrarsi in questo. Cioè, io per esempio a Milano c'è stata una causa per una sala giochi importante in centro, in Corso Vercelli, che doveva aprire, poi il comune aveva detto no, ma l'aveva detto troppo tardi, non nei modi in cui si poteva, ricorsi, controricorsi. Perché i comuni, lei dice, non possono fare niente? Perché in realtà ci stanno provando a mettere delle regole, come è legittimo che sia, ci sono regolamenti comunali per tutto, c'è un regolamento comunale anche per questo. Certo, però siccome il gioco pubblico, il gioco lecito, così viene definito, è di esclusiva competenza dello Stato, né alle regioni né ai comuni è possibile intervenire su un tema che è di esclusiva competenza dello Stato. Allora, ci hanno provato le regioni, la regione Lombardia ad esempio con una legge recente definisce sia le modalità della cura dei malati, la prevenzione, e sia le distanze dai luoghi sensibili, cioè dalle scuole, dai luoghi molto frequentati, dai bambini e dagli anziani soprattutto, dalle scuole, i luoghi di culto, le palestre, i luoghi delle associazioni, eccetera. Però quest'ultima materia, mentre la materia della salute, della cura dei cittadini è di competenza della regione, nessuno gliela può contestare, competenza sulle distanze potrebbero esserci delle contestazioni, perché il gioco è di esclusiva competenza dello Stato. Quindi voi dite, in sostanza, gli enti locali, i comuni e regioni che ci stanno provando in questi anni hanno le armi spuntate, ecco perché poi chi fa ricorso spesso la vince. Però io voglio dire una cosa a chi ci ascolta, perché magari poi pensano che si voglia fare una crociata contro qualcosa, contro qualcuno, che ci siano motivi speciali per andare contro le slot house. Lei l'ha detto, adesso poi le chiederò anche di entrare nel dettaglio del fenomeno della malattia, della ludopatia, cioè se ci sono delle cifre, cosa ci segnalano i medici, qual è la patologia che magari la gente comune non si accorge, non vede, ma c'è un vero fenomeno ludopatia. Però io voglio dire questo, cioè i comuni che possono regolamentare tante cose, possono incentivare, l'incentivo economico esiste in tanti campi, vediamo chiudere librerie, vediamo chiudere a volte dei bar, dei ristoranti, dei negozi, e non si capisce perché dobbiamo assistere invece così, senza poter dare un indirizzo al proliferare in ogni quartiere di sale giochi, che poi sì, creeranno anche un indotto economico, ma vorrei sapere di che tipo, visto che a monte e a valle non ci vedo niente di granché interessante dal punto di vista economico, ma anche diciamo, pensando ad altre cose, al valore culturale, sociale. Pensiamo a una libreria, a monte c'è l'editoria, a valle c'è chi legge, in una sala giochi a monte c'è chi guadagna e a valle c'è chi spende, basta, non c'è molto altro. Questo è per mettere le mani avanti, anche perché tra poco apriremo il numero verde agli ascoltatori, lo ricordo, 800 24 00 24. Ci parli però un po' di questa lampadina rossa, che dal punto da cui si parte, c'è il fenomeno della ludopatia, numeri, storie, che cosa è che ci deve mettere in allarme? Allora, diamo numeri al ribasso, in modo che così siamo sicuri di non sbagliare. Si stima che i giocatori in Italia siano 15 milioni. Si stima che 15 milioni di giocatori normali. Si stima però che fra questi 15 milioni ce ne siano 2 o 3 milioni di giocatori problematici, quindi che rischiano di diventare dipendenti. Si sa per certo che i giocatori dipendenti oggi sono 800.000 in Italia. Cioè ci sono 800.000 giocatori che nella loro vita non possono più fare a meno di giocare, che per tentare di stare bene, per tentare di sopravvivere alle difficoltà, anche a questa forma di depressione, di mancanza di senso della vita, devono continuare a giocare. Cioè il gioco praticamente gli risucchia la vita e loro, malati, per continuare a vivere devono continuare a giocare. Allora noi dobbiamo prenderci carico di queste 800.000 persone che tra l'altro non solo vivono questa loro vita in questo modo, ma hanno i loro familiari che la vivono di conseguenza. Senta, un'altra cosa però le vorrei chiedere, dato che, insomma, sempre parlando di numeri e di cifre, sembra di capire che la nuova frontiera in realtà è il web, cioè il gioco sul computer, ma non solo da casa, sugli smartphone è possibile giocare, cioè oggi in Italia ci sono milioni e milioni di smartphone, potenzialmente sono tutti casinò ambulanti. Regolamentare il gioco d'azzardo per quanto riguarda slot machine e videolottery nelle tabaccherie o nelle slot house non rischia di essere come chiudere le sale dopo che i buoi sono scappati? Cioè ormai forse il nuovo intervento dovrebbe essere quello. Allora, tutte e due, perché comunque una situazione del gioco con un'offerta, un'accessibilità del gioco come quella che abbiamo è una tentazione continua per le persone fragili, per le persone più deboli e quindi per una possibile dipendenza. Allora, regolare il gioco fisico, quello delle macchinette, è una necessità, lo riconosce anche la Confindustria del gioco, no? Poi c'è tutto il problema aperto del gioco online, del gioco sul computer, sugli smartphone, eccetera. Quello è un tema completamente aperto, un tema che va affrontato sia a livello nazionale sia a livello internazionale, perché si può vietare anche in un paese, si può regolamentare in un paese il gioco online, ma se esistono siti che lo propongono, i giocatori possono accedervi, no? Anche se i siti non sono in Italia o non sono in Francia o non sono in Inghilterra. Quindi su questo versante occorre una regolamentazione nazionale ma soprattutto internazionale, e questo tipo di gioco online è doppiamente pericoloso perché produce due dipendenze: la dipendenza dal gioco e la dipendenza da internet. Sono le dipendenze da comportamenti con cui oggi noi ci confrontiamo, non più da assunzione da sostanze, dipendenze da comportamenti, e l'online produce queste due dipendenze, internet e gioco d'azzardo. Per cui noi abbiamo dei giovani In Piemonte, a Torino, è già stato aperto un centro di cura per i giovani dipendenti da internet. Abbiamo giovani che incominciano a stare in casa al computer, tra l'altro con la tranquillità dei genitori, perché non escono, non fanno tardi, non corrono in macchina, eccetera. Quindi i primi tempi i genitori sono assolutamente tranquilli per questo comportamento dei figli, finché non si accorgono che i figli non sono più in grado di uscire di casa perché non sono più in grado di affrontare il mondo reale. Mi faccia dire anche una cosa agli ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666: io non voglio pagare le cure ai ludopatici, ai tabagisti e agli alcolisti. È un punto di vista anche questo, legittimo, però credo che nelle more della vostra proposta di legge ci sia proprio questo, cioè lei parlava di prevenzione ma anche di cure da finanziare magari coi soldi proprio del giro delle slot machine, cioè di non farle pagare a tutti ma di farle pagare a chi il danno lo provoca in qualche modo. Esatto. Quindi esatto. Questa è l'idea. Dopodiché le chiedo in chiusura, prima di salutarci, che diciamo speranze avete che il Parlamento possa accogliere positivamente questo dibattito? Lei ricordava il fatto che anche Confindustria è aperto alla possibilità, cioè i concessionari, insomma i gestori, di una regolamentazione, perché c'è la sensazione ormai diffusa che qualcosa vada regolamentato. Che aspettative avete? Allora, ma io direi positive, perché il Parlamento ha già approvato ai primi di febbraio la legge sulla delega fiscale, con la quale delega al governo alcuni temi che riguardano la fiscalità. L'articolo 14 di quella legge ha come titolo il gioco pubblico e non si occupa solo di fiscalità, e dice, come diciamo noi nella legge, che ci deve essere armonizzazione tra le tasse che devono pagare tutte le imprese e quelle che devono pagare anche il gioco d'azzardo. Attualmente il gioco d'azzardo è un'impresa pressoché defiscalizzata. Allora, in quell'articolo 14 non si parla solo di tasse, di tributi, ma si parla anche di necessità di una legge quadro per regolamentare il gioco d'azzardo, della necessità di curare i malati e assistere le famiglie, della necessità di dare ai comuni dei poteri, della necessità di intervenire sul versante delle infiltrazioni mafiose, sì, dell'evasione fiscale, dei finanziatori occulti, perché chi ci guadagna sul gioco d'azzardo? Ci guadagnano i finanziatori delle concessionarie, che sono i trust, i fondi internazionali, le società con sede nei paradisi fiscali di cui non si conosce chi è il titolare. Allora, noi lo chiediamo nella legge, ma c'è scritto anche in quell'articolo 14 che occorre conoscere il titolare effettivo di chi finanzia il... Tra l'altro, insomma, c'è da ricordare anche che anche su alcuni di questi gestori e concessionari ci sono state delle inchieste, cose poco trasparenti legate anche alla criminalità, ma non è che lo diciamo noi o lo scrivono i libri di alcuni giornalisti, lo dicono anche proprio le inchieste che ci sono state. Staremo a vedere. Appuntamento mercoledì 9 aprile con la consegna delle firme di questa legge di iniziativa popolare in Cassazione, poi incontrerete anche il Presidente della Camera Boldrini. Ciao. Grazie Angela Fioroni per essere stata con noi della Lega Autonomie Locali della Lombardia. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti voi. 800 24 00 24, tra poco sentiremo anche le vostre testimonianze su questo, le vostre esperienze, che cosa ne pensate. Tra poco sentiremo anche il sindaco di Grosseto che vuol vendere tutte le partecipate, vuol dismettere un laboratorio della Spending Review in salsa grossetana. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buona domenica anche a te Carlo Gabardini. Buona, ciao. Buona domenica a tutti gli ascoltatori e a te Alessio. Come vedi parlo a bassa voce perché di nuovo dalla regia mi hanno detto non urlare. Dopo sei mesi non ho ancora imparato come vediamo si fa la radio. Vediamo quanti secondi reggi a parlare così, però se parliamo troppo così secondo me poi rischiamo anche si addormenta. Effetto, domenica, una sonnolenza. A meno che non vogliamo fare un esperimento yoga. Può essere. Poi ci vorrebbe Davide Giansoldati, che è il nostro yoga della risata, quello che fa ridere e calma gli spiriti. Dobbiamo richiamarlo assolutamente. Per tranquillizzare oggi che c'è a Milano molto fermento, perché c'è questa maratona, che non è la Stra Milano, ma è la maratona. La vera maratona. Esatto, e c'è diciamo traffico, la gente non se l'aspettava, perché no, traffico no, si può dire, perché sono arrivato qua che erano le 7:30, non c'era in giro nessuno. E già questa cosa qua mi farebbe alzare la voce. Invece parlerò a questo volume oggi. Come stai, Alessio? Bene, caro Carlo, vogliamo andare avanti così oppure vogliamo fare la radio sul serio? Facciamo la radio sul serio. Ah, perché vedi, la radio sul serio è la mia, è la radio dove urlo. No, non urlo. Dobbiamo parlare di concorso? Dobbiamo parlare di concorso, dopo parliamo di concorso. Possiamo ricordare la parola del nostro contest, che poi è ci dicono, volontariato. Ci dicono perché dite contest e non concorso. Ma se voi non diciamo neanche contest, cosa potremmo dire? A parte diciamo che fatevi anche poi i fatti vostri. Ma no, lasciateci è giusto invece. No, noi facciamo una crociata per l'uso dell'italiano. È esatto, vero, sono colto in castagna. Esatto. La nostra iniziativa, perché non è un concorso, se no si va incontro a questioni legali. No, è un'iniziativa. Voi partecipate all'iniziativa, che vuol dire selezionare, trovate delle buone notizie volontariato, ci scrivete alla mail sipofare@radio24.it. poi che succede? Poi succede che noi vi richiamiamo, scegliamo chi richiamare e in qualche modo vi investiamo del ruolo di nostri inviati, e a quel punto nella puntata successiva di sabato voi farete il servizio, il vostro racconto dando la vostra buona notizia che avete scovato, che può riguardare sia voi sia ovviamente qualcun altro. Anzi, questa è l'iniziativa. Esattamente, ma andiamo a Kathmandu, dove il governo nepalese, che vanta sul proprio territorio oltre 3.300 picchi, però riesce a gestirne solamente 310. Picchi intendi montagne, sì, l'Himalaya, intenderci. Sì. Visto che noi parliamo molto spesso di questa questione di affittare ai privati, dare in gestione ai privati, come gestire i nostri musei, far pagare l'ingresso, farli pagare di più, far pagare di più Pompei, far pagare di meno e così via, diciamo che si fanno queste domande anche in Nepal, dove hanno deciso di affittare ai privati alcune di queste vette, perché loro riescono a gestirne solamente 310 su 3.300, quindi verranno affittate con un affitto di 30 anni, di modo da attirare un maggior numero di turisti e generare anche occupazione. Ovviamente anche in Nepal esiste l'associazione montana nepalese, che ha detto sì, ci sembra una buona idea, però iniziamo a fare dei contratti da 6 anni, perché 30 ci sembra troppo, poi vediamo se le cose vanno bene e capiamo come proseguire. Quindi questo è il modo in cui in Nepal gestiscono le loro vette. A proposito sempre di, diciamo, beni naturali dati ai privati o affittati in qualche modo, passiamo a questa storia che mi ha incuriosito. Esiste un sito, ashleymadison.com, che è un sito di incontri extraconiugali. Mi pareva strano che non cadessimo esattamente. Questa volta su qualcosa di questo tipo. Che cosa è successo? No, perché unisce diverse storie che noi raccontiamo diverse volte, quindi sia il fatto di gestire privatamente dei beni comuni, sia il fatto di usare eBay, come abbiamo visto per le auto blu, che in Italia Renzi ha messo le auto blu in vendita, che stanno dando a ruba, anzi addirittura vengono pagate di più di quello del prezzo di base d'asta al quale erano state inserite nel sito. Che cosa ha deciso questo sito ashleymadison.com? Che vuole comprare l'isola di Marinella, che è un'isola di 4 ettari di fronte a Punta Marana, quindi in Gallura, a due passi da Porto Rotondo, in Sardegna. Che cosa intende farci su quest'isola? Intende fare un paradiso dell'infedeltà, cioè vorrebbe comprare tutta l'isola, metterci sopra un resort privato, ovviamente, e organizzare lì degli incontri extraconiugali. Questo sito... Ma io non ti chiedo la fonte di questa notizia, come... È Affari Italiani, caro mio, e la notizia è stata ripresa da ilgiornale.it, perché questo qui non è un sito qualunque, questo sito è forse il più famoso sito di incontri... Detto così, io spero che tua moglie non sia in ascolto. È famoso. Se lo conosci, adesso l'hai detto, lo conosco. Voglio dire, sono 24 milioni gli utenti che sono iscritti a questo sito. E Ashley Madison, tra l'altro, era già salito all'onore delle cronache, perché aveva provato a sponsorizzare la squadra di pallacanestro Virtus Roma, mettendo su Ashley Madison sulle magliette. Ovviamente sono partite le polemiche, perché hanno detto non possiamo avere come sponsor un sito di tradimenti, che poi in realtà è un sito di incontri, perché onestamente il sito non è che si occupa di sapere se uno sia sposato o meno. Ovviamente il loro core business è quello dei tradimenti. Qui quindi le trattative sono ancora in corso, perché quest'isola, che è in vendita da credo più di 20 anni, e il prezzo supera i 7 milioni di euro, e i proprietari sono 5 persone sarde che ovviamente sarebbero ben felici di riuscire a vendere la loro isola. Non si sa ancora se ce la si farà o meno, ma intanto aspettiamo, anche perché finalmente, diciamo, invece che i clandestini su quest'isola arriverebbero gli amanti clandestini, direi, non so, dai naufraghi ai fedifraghi. Sarebbe un miglioramento, esattamente, credo. Esattamente, gradito da tutti. E finisco con una storia. Quando spesso ci si chiede a che cosa serve Twitter, io sono un grande amante di Twitter, a che cosa serve Twitter? Twitter può anche servire a questo. L'imprenditrice newyorkese Erika Domesek il 15 marzo prende un aereo da Dallas a Calgary, quindi in Canada. Durante questo volo parla per tutta la durata del volo con un uomo che è seduto al suo fianco e se ne innamora perdutamente. Scende dall'aereo e dice: che bello, sono innamorata, è l'uomo della mia vita. Solo che si accorge di non aver preso nessun recapito di questa persona, quindi di non avere la sua mail, di non avere nemmeno il cognome. Sa solamente che si chiama Clauco, che è nato a Torino e che vive a Soho. A questo punto lei che cosa fa? Twitta all'American Airlines dicendo: io ho bisogno di rincontrare l'uomo della mia vita. Ovviamente l'American Airlines dice: guardi, mi spiace moltissimo, ma per questioni di privacy non è che noi possiamo darle tutto l'elenco. Lei, diciamo, parafrasando una battuta del film Notting Hill, twitta: sono solo una ragazza che sta di fronte al mondo e chiede a una compagnia aerea di aiutarla. A questo punto anche quelli dell'American Airlines si inteneriscono, ovviamente non possono andare contro le regole di privacy, però retweetano ai loro 780.000 follower il tweet di questa imprenditrice, che scrive: era seduto in prima classe e indossava un maglione blu, il suo nome è Clauco, è nato a Torino e vive a Soho. Nasce quindi l'hashtag Find Clauco. Tutta questa storia ci ricorda, ovviamente, intanto vi dico come finisce: si incontrano e in questo momento, e la stessa American Airlines dice: twitta, speriamo che viviate felici e contenti, invitateci al matrimonio. Quindi Twitter, che normalmente non serve a un tubo, questa volta serve un sacco, serve un sacco. Lo sapevo. Ovviamente ci ricorda la donna di Giorgio, il nostro Giorgio De Luca, che però non l'ha mai trovata la donna di Giorgio. L'hashtag c'è ancora su Twitter, se volete divertirvi a riscoprire questa storia invece in salsa Radio 24, potete andare a cercare. Ascoltatori, anzi, prima l'indizio lo do io per il nostro personaggio della settimana. È un personaggio che ha una è in grado di mettere in relazione Roberto Benigni e Barack Obama. Questo è l'indizio del personaggio della settimana, che bisogna indovinare, e si vince un soggiorno responsabile di EquoTube. Cominciamo con gli ascoltatori che ci chiamano. Anna da Napoli, per esempio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione. Prego. Telefono per il problema della ludopatia, sì. Che purtroppo mi vede in prima persona coinvolta, per avere un parente ultra sessantenne che da anni praticamente aveva questo vizio. Noi parenti ce ne siamo accorti purtroppo dopo molti anni, e credo che l'insidia sia proprio in questo. A differenza della droga, dell'alcolismo, che non si accorge di nulla. Non ci si accorge di però nulla. Ha speso molto questo suo parente? Prego? Ha speso molto questo suo parente? Non solo ha speso molto, continua a spendere, è diventato assolutamente dipendente, inaffidabile e astuto. Per cui è molto molto difficile aiutarlo. E vorrei anche dire una cosa, che gli interessi economici sottostanti sono notevoli, e non è un caso che se ne occupi la legge fiscale. Ma come vi siete accorti? Questo suo parente dove andava? Nelle tabaccherie? Innanzitutto il fenomeno ha cambiato la fisionomia delle cittadine. Sì, questo sì, l'abbiamo detto. Perché ogni 10 metri spuntano questi bar che hanno queste concessioni. E ce ne siamo accorti perché si è indebitato e si è messo in mano agli strozzini. Certo. Per cui a un certo punto, avendo completa autonomia, nel momento in cui non ha più pagato le utenze, ce ne siamo accorti. Ed è drammatica la cosa, perché non ci sono punti di riferimento, sono tutti impreparati, e le strutture attualmente, i CERT, che sono delle strutture parasanitarie a livello locale si avvalgono di psicologi, che sono pochi, non hanno psichiatri, perché questa dipendenza è una cosa nuova, stiamo cercando di affrontarla di questi tempi. Perdoni, sì, sì. Siccome a livello scientifico sì. La depressione deve essere combattuta anche con delle medicine, non è possibile risolvere il problema, sebbene non abbia l'autorità per dire questo, ma credo che si produca un bisogno anche adrenalinico nella persona, ed è questa la dipendenza. Va bene, grazie Anna, grazie mille per questa testimonianza. Sentito Carlo? Ho sentito. Io dico solo una cosa, che quando c'erano i casinò, che uno doveva fare almeno 100 km per raggiungerli, cioè era già un filtro, no? Su 100 che avevano l'intenzione di andare a rovinarsi, ce ne arrivavano in 10. Sì, il filtro secondo me in realtà nei casinò soprattutto intanto che ti chiedono i documenti, molto semplicemente. Sì, e poi la distanza, insomma, è un fatto diverso. Sì, adesso tu giri l'angolo, entri in un bar, ti piazzi lì. Sicuramente la distanza, ma è anche il concetto, nel senso che diventa, prendo un caffè e butto dentro due monetine, sì. Poi ne butto 4, poi ne butto 10, poi non prendo più il caffè perché quei soldi del caffè preferisco investirli dentro le macchinette. Sì. E quindi mi sembra questo il problema. Poi la domanda che mi faccio sempre è, forse è stupida, però se questo signore di cui abbiamo appena sentito in realtà avesse iniziato a vincere molti soldi e li avesse divisi ai parenti, vorrei sapere come sarebbe stata la reazione dei parenti. Se uno dice bella no domanda, io questi soldi domanda. Non li voglio perché vengono dalla ludopatia, non lo so. Però siccome alla fine il banco vince, nel senso che sì, il 75% torna, però il 75% quindi vuol dire che giocando mediamente, vincendo mediamente, perdi, investi 100 e guadagni questo 75, quindi ogni giorno perdi 25 centesimi, 25 euro, quello che è. Sentiamo un altro ascoltatore prima di andare sul traffico, Ferdinando da Bologna, buongiorno. Ferdinando, buongiorno, non ci sente. Sta giocando alle slot, no? È sparito. Ugo dalla provincia di Aosta, allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un insegnante di matematica. Sì. E nella comunità montana Gran Comben, che è una comunità, è una scuola comunitaria vicino al confine con la Svizzera. E abbiamo impostato un progettino, quinta elementare e prima media, in cui abbiamo lavorato come progetto di continuità sulla probabilità statistica, la probabilità di vincere al gioco, vincere al lotto, vincere alla roulette, perché credo che contro la ludopatia la cosa migliore sia l'istruzione. Bello questo, ma con i ragazzi di che anno scolastico, mi scusi? Quinta elementare e prima media, li abbiamo messi insieme, abbiamo preso dei dadi, abbiamo preso delle monetine, perché la probabilità si comincia con testa croce, certo. Il dado sei facce, e poi abbiamo rannellato delle roulette e abbiamo giocato, e quindi abbiamo fatto la curva normale, la curva campana, la curva di Gauss, probabilità frequenze. Quindi diciamo dimostrandogli che è molto molto molto difficile vincere, certo. E che le probabilità sono a favore del banco. Eh beh, sempre. No, perché mi sembra molto interessante. La probabilità di vincere a fare la sestina, certo. 5 più 1, c'è più probabilità che cada un asteroide sulla Terra. Grazie. È molto bello comunque, se posso dire, questo è bella, sistema. Grazie perché... Ugo, tra l'altro c'è un progetto anche dell'Università di Milano, non mi ricordo più quale, forse la Bocconi, proprio su questa questione dei numeri. O la bicocca. Però la Bocconi dice che conviene investire, eh? No, scherzo ovviamente. Conviene investire, ma in un altro modo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. The chains of the world, they seem to move in time. I try to walk around in the stumbling, so familiar. Try to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom. Ho scelto questa Freedom perché vogliamo parlare dei comuni che decidono di liberarsi delle partecipate, di tutti quegli investimenti e di quelle quote in società che non sono direttamente collegate a funzioni di stretta necessità, e in tempi di spending review questo sta diventando un modello importante in alcune città. Una di queste è Grosseto, salutiamo il sindaco Emilio Bonifazi. Sindaco di Grosseto, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori di Radio 24. Grazie. Buongiorno, grazie. Senta, purtroppo noi siamo arrivati un po' lunghi, non abbiamo moltissimo tempo, però io parto dal titolo di un articolo di cronaca locale. Il comune di Grosseto cede le quote delle partecipate via ciò che non è necessario. È un'esagerazione o è la realtà? No, è la realtà, perché noi abbiamo delle società, delle partecipazioni in società che non sono più considerate anche dalla normativa società che raggiungono finalità istituzionali. Per esempio? Quindi, per esempio la società nell'aeroporto grossetano, quindi nello scalo civile, la partecipazione nella società che si occupa del polo fieristico. Tutte realtà che noi abbiamo contribuito a realizzare, quindi come comune. Quindi il nostro impegno è quello di infrastrutturare il territorio, sì, quindi aeroporto, polo fieristico, però non vogliamo essere più dentro la gestione, anche perché la gestione non sempre ha registrato risultati positivi, e questo comunque ci viene chiesto non solo dalla normativa ma anche dalla Corte dei Conti. Quindi naturalmente ci sono anche delle scelte politiche, ma delle scelte obbligate. Ci può fare qualche altro esempio oltre all'aeroporto, che è un esempio molto chiaro, perché al fine quello che ci interessa capire è qual è la linea di demarcazione tra quelle che sono le attività invece strettamente di prima importanza per il comune. Noi abbiamo quindi le società vivaistiche, i campeggi, le partecipazioni, cioè tutte queste partecipazioni, quindi la gestione di un campeggio, la proprietà di un campeggio che abbiamo, un vivaio che appunto gestiva il comune, quindi tutte queste realtà in cui il comune di fatto faceva il vivaista, faceva... Il campeggio mi sembra straordinario, il comune... Appunto, quindi noi abbiamo fatto un po' tutto questo lavoro, e l'aspetto più controverso di tutta questa vicenda riguarda le farmacie comunali. Noi abbiamo delle farmacie comunali che già nel 2002 vedevano la partecipazione del comune scendere dal 100% al 51% e il 49% del socio privato. Andando a fare un esame di queste 5 farmacie comunali, finite, questo poi è l'oggetto poi dello scontro politico più forte, se considerare le farmacie secondo le finalità istituzionali dell'ente oppure come sono presidi sanitari anche le farmacie dei privati, noi abbiamo registrato in questi ultimi anni, dal 2010 ad oggi, 5 farmacie che facevano un fatturato di circa 12 milioni e 500 mila euro di fatturato, sono scese a 11 milioni di euro e hanno 47 dipendenti, e allora con il contratto più vantaggioso, che è quello di Assofarm. Per voi stava diventando troppo oneroso. No, noi appunto, andando a vedere tutti quanti i dati che abbiamo, e facendo un raffronto, noi praticamente in questi 4 anni abbiamo perso, nelle vendite abbiamo perso 1,5 milioni. E come mai avete perso questi soldi? Perché dunque, da una parte c'è un discorso che il sistema delle farmacie è cambiato, perché prima le farmacie... Insomma, non è un'attività da comune quella della farmacia. Senta, mi dice una cifra però, la cifra che voi pensate di poter risparmiare e di mettere a budget, purtroppo in 30 secondi perché dobbiamo chiudere, per fare delle cose più da comune, tipo cose asili o cose per gli anziani. Noi le nostre priorità sono il sociale, la scuola e la cultura. La cifra in 30 secondi, che poi davvero ci dobbiamo salutare, sindaco. La cifra sono che noi, andando a vendere le nostre quote, possiamo raccogliere sono circa 7 milioni di euro. Che per un comune come Grosseto ha un valore, e le potete mettere a budget per fare le cose. 7 milioni di euro significano quasi il 10%. Ma un po' per tutti i comuni, direi. 7 milioni sono 7 milioni. Sì. Laboratorio Grosseto, grazie per essere stato con noi, al sindaco grazie Bonifazi. Mille. Grazie, ci aggiorneremo più avanti per vedere come va a finire. 800 24 00 24. Torniamo tra poco dopo il giornale radio e con i 99 posse. Iepa! Si può fare. Cronache da un paese migliore.

No, in un giorno. In un giorno, 900 piante? Si dice che chi pianta... gli schiavi che lavoravano sotto la frutta, sì. Ah, vabbè. Beh, non lo dica così però, perché poi ci crediamo. Si dice che chi pianta un albero, cos'è che fa? Crede... Vive due volte. Vive due volte. È un bellissimo libro, sì. Beh, e lei ne vive 1800 di volte, quindi esatto. Voglio dire... è per questo che l'ha fatto. Penso che ci sentiremo spesso. Ma è vero che c'è una legge in Italia che ogni nuovo nato i sindaci dovrebbero piantare un albero? Sì, la legge c'è, ma... Ha fatto lei per tutti, direi, diciamo, sì, esatto, per i nati della sua zona ha fatto lei per quest'anno. Esatto. Grazie, grazie mille Gabriella. Okay, prego, salve. Per, beh, insomma, anche lei si iscrive, anche se oggi il nostro, la nostra iniziativa era il nostro contest, diciamo. Perché noi il sabato di solito chiediamo cosa che cosa ha reso bella la vostra settimana, la domenica giochiamo con il personaggio della settimana, giusto? Yolanda... Però insomma questo mi sembra che si candidi lo stesso, bella, perché cosa ha reso bella. Adesso poi settimana. Tireremo le fila in chiusura. Yolanda da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ho telefonato per parlare per rispondere alla domanda del personaggio. Sì. E penso che sia David Letterman. Complimenti. Questa volta abbiamo vinto subito. Ed è la prima volta peraltro che di solito ci mettiamo un po' di più intorno all'ultima telefonata. Siete stati bravissimi stavolta. No, no, l'ho visto su Corriere.it, c'era una bella foto. E qual è la notizia di questa settimana, così lo ricordiamo? Che David Letterman sospenderà, annunciato che terminerà lo show nel 2015. Esatto, va in pensione. Anche David abbastanza Letterman. Giovane. Perché ha 67 anni, quindi... Io sono praticamente pensavo coetaneo, di più. Perché lui è del 47, io sono del 48. Per gli standard italiani... pensavo che ne avesse di molti di più. C'è Pippo Letterman. Baudo che vuol fare un altro Sanremo e ha superato sicuramente i 70. I 90, oh no. Scusate, mi è scappato. Grazie Yolanda, benissimo, benissimo. Bene, complimenti, ha vinto. Lei vince il soggiorno di EcoTube in ogni regione, insomma, non dico in ogni città, ma quasi ovunque ci sono dei posti, lei potrà scegliere, le arriverà il cofanetto, dove andare a trascorrere questo mini soggiorno responsabile. Se siete curiosi potete andare sul sito di EcoTube e vedere quali sono le offerte. Adesso potremmo inventare un nuovo personaggio della settimana, ma non lo facciamo perché mancano 20 minuti. No, sono troppo pochi per lanciare un altro indizio. Anche perché siamo stati lunghi con i 99 post, quindi dobbiamo recuperare. A proposito, sentiamo allora un altro brano e così ci introduce alla nostra prossima storia. Volete registrare in una scheda CD? Uscirete solo diventando sound engineer. Oh shit, shit, è arrivata la police. Dice tagliati i capelli come ha fatto Ludacris. Conto fino a 10, 20, 30, 41 bis. Temo l'occhio nero come il chitarrista The Kiss. And now, 99 Posse! Ramo documento, casino, botallamento, documento, tu me le harà. Song, song, radico, sto batterisce, sto voglia canta. Ramo documento. Dei 99 post cure cure guaglio 2.0 casca proprio bene, perché vogliamo parlare delle donne coraggio di San Siro che si battono contro il racket delle occupazioni abusive delle case popolari, quindi lottano per un po' di legalità in un contesto di illegalità. Gabardini, ricordiamo solo che sì, che sì. L'intro è un pezzo storico di Paolo Rossi, famosissimo, dove lui appunto racconta il trucco per non farsi fallimentare, diciamo, per non farsi fermare dalle forze dell'ordine. E salutiamo Lucia Guerri del Comitato di Quartiere San Siro di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la cronaca locale, Repubblica, si è occupata di quello che state cercando di fare voi. Ce lo vuole raccontare? Io, insomma, ho letto il titolo, Donne Coraggio contro il racket delle occupazioni abusive. Sappiamo che nelle case popolari c'è un problema di legalità perché succede di tutto e non è bello che succeda di tutto per chi ci abita, che vorrebbe stare tranquillamente anche in un contesto di tranquillità. Invece che succede da voi? E da noi succede che quotidianamente vengono occupate case, perciò noi siamo 16.000 persone e abbiamo 800 occupanti abusivi. La maggior parte sono stranieri, adesso c'è l'ondata degli zingari e allora ci siamo organizzate fra di noi e scendiamo nei cortili e facciamo di tutto per buttarli fuori. Però questo non è piacevole, perché oltretutto siamo quasi tutte donne, non giovanissime, e ci siamo impegnate, però siccome siamo stufi abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni della città di Milano. Ma sì. E le quali hanno anche risposto abbastanza bene, ma le cose continuano imperterrite. Senta, ma perché c'è questo fenomeno, diciamo, dell'occupazione abusiva? Che cosa crea? Si tratta di persone che hanno oggettivamente bisogno, no, si tratta, oppure di gente che vuol fare saltare la coda? No, no, siccome tengono tutti questi appartamenti vuoti e non abbiamo capito il motivo, tra Allere, Comune, Regione, il giochetto che loro fanno, e questi appartamenti sono tutti vuoti e di conseguenza vengono occupati. Invece di assegnarli in una città dove ci sono 21.000 domande per avere accesso alla casa, e loro li continuano a lasciarli così e di conseguenza vengono occupati. E come mai li lasciano vuoti? E questo non l'abbiamo capito neanche noi, perché loro dicono che se non vengono ristrutturate non le possono non sono agibili. Ma questa è una barzelletta, perché qualsiasi persona che ha bisogno accetta la casa, stato di fatto, e loro dovrebbero dargli una mano a sistemargliela, ma questo non avviene e di conseguenza tutte le notti, anche ieri notte tre appartamenti hanno occupato, pur avendo qua un presidio della polizia, e non so cosa vedono. Che percentuale sono in realtà altre persone che anche loro sono, diciamo, in attesa di casa, solo che voi giustamente dite noi siamo qua che stiamo cercando di avere le case e invece loro le occupano abusivamente. E invece loro le occupano abusivamente e vi viene voglia anche a voi di occuparle, immagino. Come, mi scusi? Vi viene voglia anche a voi di occuparle. E infatti noi abbiamo detto le occuperemo tutte noi e arriveremo, aspetteremo che mandano l'assegnatario, perché così non si può andare. Senta, però che percentuale di case, se è possibile dare una 20% stima, 20% San Siro svuote? No, adesso vuoti ce ne saranno ancora un 150. Quindi una percentuale alta. Infatti non possiamo noi continuare a fare la guardia, siccome ci siamo esposte anche troppo, e a un certo punto, però io non riesco a capire. Noi abbiamo raccontato stamattina per esempio la storia di Grosseto, che vende e vuol disfarsi delle sue partecipate nel vivaio, nel campeggio, nell'aeroporto, per concentrare le attività su quello che è strettamente necessario. Per esempio la politica degli alloggi è una cosa strettamente necessaria che i comuni dovrebbero fare, e dovrebbero diventare più efficienti in questa gestione, e questo mi sembra evidente. Però perché siete voi donne, tra l'altro, in particolare a cercare di metterci una toppa? Non c'è nessun altro che... No, poi noi chiamiamo la polizia, chiamiamo l'Aller che è proprietario di casa, ma all'inizio quando noi sentiamo, perché io non auguro a nessuno di vedere quello che vediamo noi quando sfondano, è una cosa terribile, guarda, terrificante, che ti segna anche dentro, no? Sentiamo i rumori, scendiamo di corsa e li mandiamo via qua, e siamo riusciti a mandarli via per 4 volte, però gli uomini poche volte scendono. Comunque noi siamo molto coraggiose. Anzi, complimenti per quello che cercate di fare, di riportare un po' di trasparenza, di ordine, di legalità in queste case popolari. Il fatto di queste occupazioni abusive crea anche degli effetti secondari negativi di un contesto difficile, di violenza, di spaccio. Certo, una convivenza impossibile, direi, a volte, perché è molto difficile. Quali sono i problemi che avete maggiori con queste illegalità? I problemi maggiori sono quasi tutte persone straniere, che noi facciamo anche uno sforzo sovrumano per cercare di collaborare con loro, ma è una cosa difficilissima, non si riesce a penetrare nel loro mondo, anche se noi qui abbiamo un laboratorio di quartiere istituito dal Comune di Milano, che meno male che c'è, e con loro riusciamo ad ottenere magari che qualche persona egiziana partecipi, ma è una cosa molto difficile. Le dico una cosa sola: abbiamo qui a San Siro, c'è una scuola, Via Paravia, una delle scuole più belle di Milano, più belle di Milano, e hanno difficoltà a fare una prima, perché gli italiani a scuola lì non mandano più bambini. Ma in che senso, mi scusi, è difficile? Perché ci sono 85 etnie diverse. E allora gli italiani dicono: io non mando i miei bambini in mezzo a tutti, rimangono indietro, non imparano, perché ora che devono parlare arabo, cinese, giapponese. Beh, non è che devono imparare, è una scuola italiana, loro impareranno la lingua. È molto complicata la cosa. No, non lo metto in dubbio che sia complicata, però mi fa strano anche che gli italiani dicano: noi non andiamo a scuola con gli egiziani. No, non credo che sia così. Qui è così, ognuno porta è un peccato. I bambini dove non ci sono questi, diciamo, e non mi sembra un grande insegnamento, diciamo così, certo di accoglienza. Certo che non è un grande insegnamento, però se nessuno ti dà una mano, se nessuno collabora, se nel provveditorato di studi capisce quanto è grave il problema, le maestre non possono diventare matte per questa cosa qua. Perché non è facile, perché l'egiziano non parla col marocchino, il filippino non parla con... Ma però non è che ci si può lamentare se lei mi sta dicendo che l'italiano non parla con l'egiziano, perché l'egiziano dovrebbe parlare col marocchino, se è questo. In realtà devono parlare tutti con tutti, e i bambini tra l'altro non ce li hanno questi problemi, semmai sono i genitori. Certo, guardi, noi abbiamo fatto un bellissimo servizio col direttore della stampa, perché lui è cresciuto nel mio quartiere ed è andato in quella scuola lì. Il problema è che quando c'è una concentrazione troppo alta di stranieri, col problema della lingua italiana, allora diventa difficoltoso portare avanti tutta la classe, il programma è quello che è, quindi ci vorrebbero meno ghetti e più integrazione vera, quella sì. E la storia però che ci sta raccontando Lucia Guerri del Comitato di Quartiere di San Siro in queste case popolari non è esattamente una storia di integrazione, ci provano, ma con troppe difficoltà. Facciamo un appello per salutarci, Lucia, al comune, non lo so, a chi che possa intervenire lì da voi per migliorare le cose. Grazie molto, noi faremo un appello alle istituzioni che si diano da fare per cercare di capire, non pensare che c'è solo l'Expo, ma ci sono anche persone che per bene che vivono in modo non bello. Brava, non pensiamo solo all'Expo, ma pensiamo anche alle case popolari. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Buona domenica davvero, grazie. Facciamo un ascoltatore al volo prima di chiudere questo blocco. Luisa da Roma, buongiorno, ascoltatrice. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego, Luisa. Ciao, allora io vi ho chiamato perché non so se vi ricordate, ma un paio di mesi fa vi avevo parlato di un'iniziativa a Roma che stavamo cercando di mettere su insieme ad alcuni amici musicisti. Sì. All'epoca era proprio sul nascere. Adesso come no, invece... un'iniziativa in favore dell'alluvione in Sardegna, se non ricordo male. Esatto. Sì. Bene, adesso abbiamo capito che si può fare ed è diventata realtà. Infatti il 18 aprile ci sarà questo concerto al Blackout di Roma in favore della LIDA di Olbia, che è un'associazione animalista che gestisce un rifugio enorme e che naturalmente è stato danneggiato dall'alluvione. Ci sono tre gruppi romani di culto degli anni 80 che tornano insieme. Ci sono, apposta. Diciamolo? Allora, ci sono i Bubu Sex, che è il mio gruppo. Ok, è uno. Poi ci sono i Fast and Belt e i Garçon Fatal. Sono tutte band che sono nate negli anni 80 e poi naturalmente alcuni si sono anche chiusi negli anni 80. Benissimo, allora diciamo che c'è questa reunion di tre rock band che vengono dagli anni 80, reunion fatta apposta il 18 aprile in favore della Sardegna, dove? Al Blackout a Roma in via Casilina 713. Benissimo, lo posteremo anche su Facebook se avete una locandina. Grazie, grazie mille Luisa, in bocca al lupo per questo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siamo quasi in chiusura, però vogliamo segnalarvi un altro appuntamento importante, che è questo, il Festival del Volontariato, che torna anche quest'anno dal 10 al 13 aprile a Lucca, direi, spero di aver detto correttamente. Ne parliamo con Edoardo Patriarca, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato. Sì. Ho detto bene, dal 10 al 13 aprile a Lucca? Va tutto bene, formazione perfetta. I titoli li abbiamo detti giusti. Perché e per come un festival del volontariato, Patriarca? Un fenomeno che sicuramente ha numeri in crescita, per fortuna, perché il volontariato, io lo dico così come incipit, fa bene anche a chi lo fa, non solo a chi lo riceve. Ah, ma certo, questa è la verità. Generalmente si spaccia sempre la strana tesi un po' triste che bisogna fare il bene nella tristezza, no? Invece io dico si fa il bene e si fa il bene anche a se stessi, quindi dico sempre un po' le persone che fanno volontariato dovrebbero essere anche sorridenti, e perché ricevono tanto da coloro che aiutano. E il festival è la seconda edizione in questa versione, abbiamo scelto di farla dentro la città. La città di Lucca, che è bella, ma è un festival nazionale, vorremmo farlo nella città perché è bene che il volontariato sia percepito non come una nicchia, ma come una risorsa preziosa e importantissima per il nostro paese. Ecco, noi vogliamo raccontare in quei giorni, così per usare uno slogan, l'Italia che fa bene, l'Italia che di fronte alla crisi non è lamentosa e non si è rassegnata, ma che è già in opera perché questa crisi possa essere superata e si possa pensare a un paese migliore. Ecco, non è detto che la crisi consegni un paese disastrato, può darsi che invece si apra orizzonti insperati. Credo che il volontariato in quei giorni potrà raccontare questo paese. Ecco, a me piace proprio dire così, ecco, liberare queste energie positive che vivono nel paese e che spesso non sono mai raccontate. Quali sono le nuove tendenze, se una cosa del genere si può dire, le novità anche nell'ambito del volontariato, per far capire dove stiamo andando? Ma è un grandissimo laboratorio, abbiamo due versioni, due ambiti: il volontariato, quello forse più noto, quello della protezione civile, quello del sociale, quello del banco alimentare, quello del sostegno alle famiglie, agli anziani non autosufficienti, e c'è tutto un altro volontariato di seconda generazione che è impegnato per esempio nell'animazione culturale, che è impegnato nell'accoglienza degli immigrati, che fa il doposcuola, che gestisce pezzi anche di welfare, gestiscono musei, tengono aperte delle chiese, c'è il volontariato che è impegnato moltissimo nell'ambiente, nella tutela ambientale. Ecco, c'è tutta questa seconda generazione che vede anche molti impegnati giovani, e c'è anche il volontariato, diciamo così, come si dice oggi, dei diritti, dell'advocacy, cioè quel volontariato che cerca di dare voce a coloro che faticano. Per saperne di più, appuntamento dal 10 al 13 aprile a Lucca. Grazie mille, Edoardo Patriarca, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Siamo in chiusura. Infatti, è pensato che non ho parlato per non perdere del tempo. Perché non abbiamo più tempo, esatto. Dobbiamo semplicemente salutare tutti, ringraziare Andrea Piana, Giorgio De Luca, Laura Vanossi, oggi in diretta con noi, Carmela Lauricella in regia. Ci sentiamo sabato prossimo. Buona domenica. Da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast. Ciao. Si può fare. Niente corsa alla Viminale. Arriva la sforbicia Italia, dice Renzi. Piano tagli da 5 miliardi, nel mirino anche IMS e INAIL. 5 anni fa il terremoto dell'Aquila, questa mattina paura per nuove scosse in Calabria. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Sono stati depositati questa mattina al Viminale i primi simboli in vista delle europee del 25 maggio. Il primo, quello della Lega Nord, a depositarlo è stato Roberto Calderoli. Secondo simbolo è Basta Euro, poi scelta europea di Monti Giannini e Fratelli d'Italia con il nome di Giorgia Meloni. Davanti al Viminale, prima che aprissero i cancelli, non c'era però la fila vista in passato in simili occasioni. Poca la fretta e poca l'affluenza. Ed è domenica di lavoro intanto a Palazzo Chigi, dove il premier Matteo Renzi sta lavorando al DEF, che sarà martedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Dopo il Cresci Italia e il Salva Italia, dice il premier, è giunto il momento dello Sforbicia Italia. A Palazzo Chigi la lima è stata usata tutta la notte per definire un pacchetto di tagli alla spesa che Renzi e il governo vorrebbero portare avanti e che dovrebbe essere pronto già martedì. Si parla di 5 miliardi di euro, la metà dei quali dovrebbero arrivare dalla sanità. E già qui sorgono i primi problemi, perché il ministro Lorenzin pare si sia opposta, così come le regioni e la minoranza PD guidata da Stefano Fassina. Anche Palazzo Chigi, se potesse farne a meno, lo farebbe, ma dove sforbiciare allora? Per centrare l'obiettivo dei 5 miliardi potrebbe essere rafforzato il taglio degli stipendi ai dirigenti pubblici sopra i 70.000 euro. 800 milioni di euro potrebbero arrivare dal giro di vite sugli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. La difesa invece potrebbe contribuire con una spending review da 500 milioni. Tra gli altri settori nel mirino compaiono anche INPS, INAIL e addirittura le Camere di Commercio, le cui funzioni, secondo un'ipotesi di stampa, potrebbero passare a comuni e ministeri. Per evitare di colpire la sanità è sul tavolo anche l'idea di rinviare il taglio dell'IRAP alla prossima legge di stabilità, con effetto quindi dal 2015, pur se in riferimento all'anno fiscale precedente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tornata a tremare anche questa mattina la terra in Calabria. Due episodi ieri e questa mattina di nuovo alle 7:19. Una scossa sismica di magnitudo 2.4 è stata registrata nel Golfo di Sant'Eufemia, a largo questa volta delle coste tirreniche della Calabria. Già alle 2:15 nella notte era stata registrata un'altra scossa leggera di magnitudo 2.7 tra i comuni più vicini, Drapia, Ioppolo e Tropea. Scosse che arrivano a 5 anni dal terremoto all'Aquila. Quest'anno alle 3:32 sono state ricordate nuovamente le vittime di 5 anni fa, il 6 aprile 2009. Entro il 2017 l'asse centrale del centro storico sarà ricostruito, dice il sindaco Massimo Cialente, ma servono 700 milioni. Al via i test d'ingresso all'università, da quest'anno in versione primaverile. Si parte martedì con la prova di medicina e odontoiatria e l'Unione degli Studenti per il secondo anno distribuisce una guida per il test sicuro. Gianluca Scuccimarra, coordinatore nazionale, al microfono di Maria Piera Ceci. Una guida che permetta loro di capire che cosa deve accadere all'interno dell'aula affinché non ci siano brogli. Quest'anno facciamo un passo in più, abbiamo deciso di proporre agli studenti un'app per cellulare con la quale non solo potranno capire che cosa deve accadere all'interno del test, ma potranno quasi in tempo reale, cioè immediatamente alla fine del test, inviarci segnalazioni su tutto quello che accade all'interno, un'arma in più per difendere i diritti degli studenti. Che cosa temete in particolare? Possibili brogli, che ci sia un'organizzazione gestita male all'interno dei test. E ci fermiamo qui. Vi ricordo tra l'altro domani dalle 22 il nostro speciale Università Test d'ingresso. Dicevamo però ci fermiamo qui, le 10:04. Ancora buona giornata da Anna Migliorati. Ci risentiamo con GR24 alle 11. Interni esclusivi, design innovativo, cambio automatico. Tutti concentrati qui. Nuova Lexus CT Hybrid Concentrated Hybrid a 22.900 euro o 229 euro al mese TAG 482, con manutenzione ordinaria, assicurazione furto incendio incluse, e dopo 3 anni il tuo usato lo riprendiamo noi. Scoprila in tutti gli showroom Lexus anche domenica 13. Lexus, creating amazing. J.

Problemi ai vetri auto? C'è Dr. Glass, lo specialista in Italia per qualità e sicurezza. Convenzionato con le principali compagnie assicurative, lo trovi sempre vicino a te o all'800 10 10 10. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Dal regista Wes Anderson è stata assassinata. Voi pensate che sia stato io? Una storia ricca di colpi di scena. Avevo 84 anni. Ne ho avute di più anziane. Risse furibonde. Giro le mani dal mio garzoncello. E grandi evasioni. Smettetela! Chi spara chi? Gran Budapest Hotel. Ha buttato il mio gatto dalla finestra. Wow. Dal 10 aprile al cinema. Calcolare ogni percorso. Scegliere la prestazione. La strada non ha segreti quando hai tutto sotto controllo. Nuova Alfa Romeo Giulietta Riders. Con sistema Uconnect 6,5 pollici, radio nav, fari Bixenon autoregolanti, selettore di guida Alfa DNA e sensori di parcheggio. Tutta la tecnologia è di serie. Solo ad aprile fino a 4.000 euro di incentivi più finanziamento anticipo zero, TAN zero, TAEG 1,85. Salvo approvazione Sala. Info su alfaromeo.it. La tua firma alle chiese valdesi e metodiste è un gesto concreto per un'Italia più giusta e accogliente. Liberiamo energie alternative. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, 100% alla solidarietà e alla cultura. Con il tuo 8 per 1000 nel 2013, la Chiesa Valdese ha sostenuto 1000 progetti in Italia e nel mondo. Non un euro è stato utilizzato per le spese di culto. www.8per1000valdese.org.